Pare ci può essere. Buonasera. Sì, anche a lui. E allora, cosa illumina, cosa hai fatto oggi? Metterai mani oggi. Come? Metterai mani oggi. Ah, non l'ha cambiato. Poi ci sarebbe lo sport. Sono ciamba. E vai a far bere ugualmente, dai. Calda, cereni. Insomma, anche le un'arietta e non mi dice case bene. Cazzo. E oggi ha fatto caldo, Adesso l'arietta sta cominciando di nuovo. E oggi è che domani, è da rido. È ancora brigio. Cazzo. Andiamo bene, più bene siamo. Bobo. Ehi, come ti viene, ce la bigliemmo, li dodici. E tu la puoi cambiare. Così è, così fa. E se possiamo, il caldo lo deve fare. Vuol dire che sopportiamo. Infatti. Sono in terreno di rabbiglietto. Mamma, vabbè, il mentire è... Per carità. Ah, va, figura che ti scendi, buio. Cazzo, dici, vedi tutto. Lo bacciano se caglia, buio in piedi di nuovo. Ma se c'è palli, così c'è in mezzo. Un problema è fatto, tu ci imparano a poi incendio, ci bruciano io di mattessi. Sarebbe il colpo, nemmeno quello possiamo fare, so. Davvero, nemmeno quello si può fare. Sino già se lo meritano a fare queste cose. Come quei due pompieri che sono morti, vedi. Però a ciò prendere le cose, li abbiamo abbigliati, li abbiamo costretti a camminare, e ce l'abbiamo tutto in mezzo, ce l'abbiamo tutti. L'abbiamo buttato in mezzo, l'abbiamo buttato, l'abbiamo fatto che non abbiamo dottorato e disse. E così imparano. Caccia. Sto bruciando tutta la natura, gatta. Boschi, gatta, che era un peccato, gatta, erano così belli, e lì stanno distruggendo, sto. Ma non è solo in Italia, è dappertutto, sto. Lo so che è dappertutto. Purtroppo i delinquenti ci sono sempre quelli che vogliono trovare, fatto dato l'esempio, buttati in mezzo al fuoco. Avrei visto che non verranno indotturati. Tu, niente, la ciappa lì, lì la tramagna è la via, dormì, cazzo, che dici voi, l'italiano? Vedete, ce l'avete fatto, e così in mezzo al fuoco, lei a mangiare e via, abbiamo imparato a non fare più fuoco. Che sei tu lì, il fuoco, sono le fatte di Dio che ci travagli, alle finite di fare ci travagli. Capito? Per carità. Cosa c'è? Non possiamo fare niente. Ah, ti ripigliano. Lasciano un po' dentro e drogano subito. Ma poi dovrò fare la stessa travagli. Ma se non basta fettilli, infimi, ma te se basta fettilli. Non lasciarli che si bruciano. Questi delinquenti. Ma chi dice sono delinquenti? Bisogna rimandare burro, che quelle esistono, so, come tutte le cose, avvio, come tutte le cose, ma batte per sempre, si tirano la rega madrugico, allora, lo cristiano, capito? Pagano e fanno quello che vogliono. Sì, ma c'è appena avevi visto che ci avevi fatto in mezzo, avevi fatto il dato e tutto quanto, quando comincia a farle bruciare. Oddio, e fatti favore al delinquente, tu non immaginare. L'hai visto, cazzo, l'esperienza, per carità. Non si può immaginare, è caduto finito a parte, e meglio acqua subito invece da fuori. Io ti credo che ne ci dici da fuori, tutte a ciappalli, ma voi vedi cosa... A ciappelli, agli abbigliati, agli occhi, in mezzo allo fuoco. Avevo detto che non aveva neanche più tornato, dici, che l'aveva fatto il biscià sotto, l'aveva fatto il biscià. La parabola la faceva così. Ammazzato hai, ammazziamo a te. Guarda hai, prima di andare la mano. E mi pare che una voce era così, da. A me pare che no, io che delinquenti ho un bel niente. E sono stato esistito sempre la persona, sono stato esistito sempre. Per cui, no, ragazzi, tu li devi fare, chi si assano. E le mandate, pagali, vai, fai questo, a figli e andare a chi su, a farmi di là, capito? Invece si aveva cambiato subito qua, prima di fare un guadagno, aveva visto che non l'aveva fatto più un mandante. Non lo vuoi fare, niente delinquente, bisogna il mandante delinquente e tu, dici, gli anni fa me ne denà, sono peggio dei delinquenti. Ma che tutti si marrepende, cazzo, cazzo vai religio come ti soggia, cazzo, è la casa mia, cazzo, furali, ma ammazzali, cazzo, e non li fate niente, cazzo. Così è. Ci abbiamo fatto la cosa, come ti ci devi, anche delinquenti, avevi visto che non abbiamo bruciato più. Stava a rubare poi dove c'è nel sale in mezzo. Gli hanno appiccato nel fuoco. Oh, ci avevo già passato il burro, che poi il fuoco. Ehi, anche quelli ci sono. Io che in Sardegna, cazzo che mi sono molto bene dal fuoco, vabbè, si costiamo il fame male, no? Sono di più puro, mi sono molto bene, sono mossi, e animali sono mossi, hai fatto vedere tartarughe mossi in terra. Ehi, a proposito di tartaruga, una l'ha divisa di noi, l'ha reato dal giornale, l'hai vista? Bruciata, era bovaretta, cazzo. Qui ce l'hai arrivati. Sì, non è che c'è secondo i zenni. Eppure altri animali hanno bruciato. Erano in mezzo, non sono riusciti a fuggire. Questi di 20 anni è di... 10 anni in bocciù poco. Questi dove hanno diventato di 20 anni diventato. E che si intendono? Qui vi sono cinghiale, vi sono pochi, vi sono da commerciale, cazzo, sono pevole, macchi, cazzo, hai caduto il fuoco, come ti fai a fare il prezzo a camanire? Brucia tutto, cazzo, mamma mia, cazzo. Però io sono 80 anni fa, che bruciava l'elba, l'elba. Seminava, no, passava a rotatori e seminava. Grazie al governo dell'ONU, da parte di Italia. Ah, lo sai che si è passata a casa sua, a Buru, si è passata, è bersiami si è passato, fa qui padello. La nettava, non brucia più, non ti conviene più bruciava. Si è passata a casa sua, e poi ormai i figliori e la moglie si passava. Anche quelli sono successi, troppo per risolvere, incendiare io cazzo. E poi chi sta gente che fuori nel muro, come si chiama chi sta gente che fuori nel muro? Arriva a un certo punto a un caso di scocchiare e fatto un fuoco. Sì, tipo sono cose che preparano. Ah, poi di quando si andano si accende, ha ragione, hai compreso? Però gli incendiari. La venne gente di Matteci che fa un vlog ma a Fallesra da poi avere un campo già pronto. Boh. E gli sa già peggio. Era l'unico. Era a fare un vlog, aveva appena Cervera, non ha bella Cervera, molto Cervera, ma è giusto che sia così, Non ci sono pene Cervere, ecco cosa è, non ci sono pene Cervere, se avevano detto pene Cervere, a potesse di Trento, in mezzo a un fuoco, avrebbe visto che non aveva durato in più a cinque anni nulla. E allora, basta, ha ragione, basta dare un giusto, oggi è così, abbassare il gioco, abbassare il dusso. Infatti, purtroppo, purtroppo è così, è stato, come ti dicevi, invece no, non è vaggine, per ne servire. E cosa fate? Un mese, poi ne regalano. E allora? Però male che la brucia, un gatto si può bruciare, e il gatto brucia, il circondario lo finisce, proprio da incendiare, così che a poco della brucia e non potrà nessuno, così dove ce ne va tutti, ma lo so tutti. A questi rubati prima di questo periodo li fuggi il fuoco e arriva già giù un bel di lunghi, capito? Capito che ci vicino a Cagliari, questi tre. Uno era Bastori, la seduta era con il fuoco, tanto ma di vestirsi. Lui, questi due erano avuti, erano condannati a 6 anni, erano condannati. Aveva buttato direttamente a risarci tutto, aveva buttato, no, aveva fatto 6 anni, no, a risarcire, quello che lei come teneranno i scindi, abbiamo visto Bastori, aveva fatto lo gozzo di pagare tutti i canti. Ma lì ci sono gente rispettosi, gente rispettosa, non vede... Per alcuni che sono minorenni, sono girosi, pigliano i padri, chi si ha sul coso padre no? No, fa coso rubagliani, fa gioco rubagliani, fa dei vicissi. Un giudice l'ha detto, adesso per divertirsi, qua per fatte 6 anni dentro. Poi vediamo. Prima di uscire vediamo se vi siete comportati bene. Ehi, ma è bisogno che se ne appunti, capito? Adesso li trattano bene, anche se sono dritto. Capito? Adesso li trattano bene. L'unica cosa è, non abbiamo avuto a 6 anni io no, abbiamo avuto un risarcito a tutti quanti, i tipi, dice che è bruciato, vabbè quante ettari è bruciato. 50 milioni hai di durrà, avanza, torna poco a poco, se no si ammazza l'issu. Ecco, e se non ha cosa fatti? Se non ha pagato cosa fa detto? Appena appena ve l'abbiamo fatto chiamare. Non abbiamo fatto già va piano a piano. Dai, c'è tracciata oggi. C'è già la tracciata. Poi, cazzo, per carità. Fate quello che vuoi, non tanto mi fanno niente, c'è un po' che ne c'era fuori a partire, questo lo fai, chi ci dà di fatto? Sì, quando mi fai pagare che ti blocchi la busciacca, la vedi come ti è un danno. Certo. In Germania era, ma adesso non so se c'è. Caro, li bigiavano e fanno anche qualche cosa, li bigiavano. Adesso se vuoi mangiare devi travagliare. Non travagli, non mangi, cazzo, allora è un grammapa. E allora là c'è questo che sta travagliando per poter mangiare, cazzo, è contro la bella. Adesso non so se c'è ancora quella lei in Germania. Qui alle dove era? Ah, ci hanno battuto tutto. Sì, cazzo. ce ne può più, no, di taglietti incendiari, fare dai. Aveva bocciato il fuoco, io stamattina che andava via, mi diceva aveva bocciato il fuoco. Perché? Tu hai bocciato il fuoco? Ah, va, tu il fuoco tu. Ma non si può fare ciò. Non si può fare nemmeno quello. Se ne fregano, perché l'altro non fanno niente, capito? Però hanno fatto questa legge nuova che per gli incendi, non so che pena è, ma vanno a te, cioè, è come se li soffendi, capito? Se ci affendi, mamma mia, ragazzi. Cosa vuoi fare? Delinquente, bisogna incendiare, degradati, bisogna. Quindi, ma ci apprende se aveva fatto un coso di fuoco in alto, avevi visto, se non avevi tutto radi. Ma dadi voi, ma dadi tu, a ci apprende, poi terra è massacrato, in modo che non possa fare più nulla. Senza, purtroppo. Delinquente bisogna sempre, solo che è individuale che ti muoiono la cosa e si allontanano, piano piano si allontanano, non siamo stati noi, ecco cosa ti dici, ma tu prova a ponerli a incendiarli a vedere se te ne devi avere dai. Ma se non li c'è Roma che sono fatti, tutti, l'involimento più antico, con il triaccio della Fernice, e anche la puntata di Trega, al massacrato, gli santi, cosa fate, ragazzi? La legge, quando mai era proprio la legge che non è tira, ma sempre i taglietti. No, l'unica cosa era in Padova, a Bafuri, fai pure a Ringa, Ruburi, Muro. Certo, abbiamo fatto pure questi tanto per buoni, tanto per buoni, quindi se n'ha pure lo dottor Canto, avete che non avrà più tornato questo. Ma a comprendere giù, a rassicurso, grazie. Cazzo, quando faccia dei movimenti, cazzo, quando, ma, cazzo, vandalismo, cazzo, e come tutte le cose, incendiari e tutto, bisogna sempre, bisogna sempre stare, se la va è peggio, la va bisogna fare in una maniera, e lasciami va, ecco cos'è, lasciami va, purtroppo. Faccio a prendere in bruttendi, l'abbiamo fatto pure, ecco cosa è, l'abbiamo fatto pure direttamente. È pure riga che l'abbiamo fatto pure, davvero, pure riga. E sempre pure vi sono in mezzo. Chi sei, l'abbiamo fatto di peggio, l'abbiamo fatto. Ma chi sei l'abbiamo fatto di peggio? Avete visto che non per i dottorati che ci hanno bruttato. A rovinare la natura, ragazzi, a rovinare la natura, roba sua, ma stessi, boh. Ma non hanno compreso che da voi, che andando a pagare i dazi, per il buono in mezzo ai dazi, per il buono, e paga in mezzo ai dazi. Che andà a paga, che non ha, cosa fai? Che non ha, non li paga, e basta. Il buono è che tu mangi il dito, la faccia duia. Lo farà ancora per poco. Solo che non sanno che è roba di Mattesi. Ecco cosa è. Tu sei in bruttelli a roba duia Mattesi. Ma che tanto va buduio e mamma duia hanno sacrificato, ma a farlo va. Ti hanno pagato. E tu, delinquente, tu sei arruinendo. A me pare gente malata che si trova. Qui c'è gente malata. Davvero, qui c'è gente malata, dove sta il capo a fare azione del genere, a rovinare la cosa giusta, ma te, certo, Del Magireggio. Ma infatti, è roba degli. Ma in un gabbo. D'estate, è grugoso, ma in un gabbo. Gira danni in vescio. Oh, yeah. Un attimo, so. Eccoci qua, so. Fino a seminoghi. Purtroppo è così. Tu ne dimmo e peggio vagini. Come se dici, cazzo, oggi mi ristruttureggio un palazzo. Stavo e non ti andare, cazzo, e i crimini tu altro vado a me fare di faccia. Ma io sono una nazione brutta, ma te. Dici, avvi abbigliati. Prima ne avvi abbieni tutto di dinta, ne avvi abbieni. Ne avvi lampato la dinta in nato. Ah, dopo ve ne avvi fatto pure. Allora si è messo in zaiga, per carità. Vandali. Ah, di rubiso vai in cigogli, tornati quelli che ci godi, so. Cazzo. Come fanno a fare azione del genere, ragazzi? Ma già uno a Calino, di sotto, che è in prezzo muro, agito. Ma vedi che ha buttato la via, disegnando, te ne vieni qua a sporcare il muro. E lo so per casa tua. Ma vedrai, oh, se no prova dentro casa tua, nei muri. Non c'è gusto così, non c'è gusto, c'è gusto solo di sporcare qua. Sai come fare bene se ci dove lontano il grasso? Ma detto io a mamma. Ah, ha detto mamma, dove non vedi nobili? Ecco cosa è. Ma è spesa ancora, ma ha bisogno di più. A chi la che ci sta il giorno di oggi, no? E guarda, un giorno per l'anno e sto per mezzo, che figlia la stessa via di chi e sono sempre aumentati, capito? Ma fare dai. Ma una nuova generazione. Certo, quella i bomboletti. Agito, sì. Se invece di parcheggiare i nuovi avevi parcheggiato dentro nella camera a Duglia, avevi finito che era stato tutto un coso. Però poi va a Duglia e avevi buttato la furilla, avevi buffo. Tu c'eri la vai i nuovi, mi ha vai i nuovi, ha detto, non che vai da pulire, ma lo devi pulire tu, Ho detto io, ma è imbruttato. Quindi c'è da pagare, allora lo devi... Pulisci o paghi? Dai, siete fuggito. E penso che cazzo sia, i genitori non venivano a fare i paghi, si pensa. Ma che sono malini, nasci di visito, non c'è idea. Cazzo, penso che i casalelli non li fate, sono puriti magari. Però fate di danno pura. Non deve fare niente, anzi devi stare più puriti, non è che no, se ti tocca ancora. Non lo so, che anche il subizzino l'ha ripiazzato una macchina a Rubabu, tutta di vernice a bomboletta, l'ha ripiazzato. E vedi l'altro figliolo, me, che è stato il tuo figliolo, così l'hanno detto. Una volta ha giunto la macchina così. L'ha rifatta ben, ragazzi, e tutta la macchina di quattro, cazzo. È già una cornice che riesce subito, però usare anche quella cornice che chi non riesce è, chi non ha la tigheggi. E infatti, così, purtroppo, questi bettini che pensano di fare un bel di cosa, sempre assai tutto gatto, però non si avvisa che un domani va a toccare a già derubato toccani. A razzi a senso, a razzi modo di va, cazzo. Come Tino Cabarizzo, era un campetto lì. Cazzo, l'hanno fatto per giocare i vestiti, stavano arruinati. Hanno fatto un muretto. Ma sono durato l'unica notte, i bomboletti, mi sono fermato, a Bessa mi sono fermato, marimo in un gongo, marimo, capo, mi sono fermato in un muretto. Anche lui a bella mamma non sanno, si ricappano a mangiare un ghito, si ricappano, ecco cosa è. Bagarella poi magari fa, abbia la babba si piglia a ragione pure il biglietto. Infatti, si piglia a ragione, si piglia, si arrabbiegiano. Ah, le piglia non ho fatto nulla, no, no. Non li fa anche come te, ne fa un bel. Esempio, si è messo si piglia a ragione il biglietto. Beh, è il migliore invece di la tutti. Meglio la salla contro Giulio, la salla pedita, niente. Quando la ciapi, e quelli che c'è cantoni, che diavolo, non si mette a Dio, no. È stato il tuo figliolo. Ecco cosa è. Cosa voglio fare? Sono qua sempre, tutti i muri sono qua sempre. Sto facendo tutti i muri, ma pari in America, oh, pure in America hai fatto queste cose, tutti i muri bracciati. Ogni rogo è così, ogni rogo fa tenere tutto, fa tenere l'anno, fa tenere. L'ho visto che si hanno tagliato i cavi nella linea elettrica in Francia, certo, pure a correnti, pure hanno tagliati. Oh, capo è sbagliato, cazzo, capo che mi sono l'Olimpiade. Ai noti, hanno tagliato cavi dell'alta tensione, quindi già si è corrente a Redreni. Cazzo, io c'è tutto, fino a poco già dormire in giro. Cazzo, ma arrivo, ti rubiacerà, ma arrivo, cazzo, tutti a madre, cazzo, cazzo, blindata, però, si deve fare la facile, non si dà misura del manco. Purtroppo, Gisci, hai fatto un bel di danno, pericolo che per rimaniani, ecco cosa è, anche in crisi per l'alta tensione, se l'abbiamo educata appena fulminato tutti quanti, avrei visto che non verranno in più torrate, Gisci. Di così non mi piace il sedile, da fa, quando sono felice tra l'aria, alla macchina per rimanere, certo, il suo diente è il saiente, capito? Fuori fa male e basta. Certo. Ma che dobbiamo rimanere fulminati, dobbiamo rimanere ci. Se dobbiamo rimanere fulminati tutti quanti, con alta tensione. Ma così abbiamo fatto un danno. È tutta gente sbassata, sto. Gente esaltata, gente che la pensano in un modo diverso, capito? E fanno quello che vogliono, magari sta cantando un padre e non vengono a scoprirsi, però prima o poi già la ciappano, capito? Ma già la ciappano, sì, prima o poi già la ciappano, che viene le telecamere, bisogna le telecamere, bisogna. E gli arrivi, ma il cappuccio, con un cappuccio in capo, no? Forse io fa male a voi gli arrivi, libero gasso. Speriamo che la ciappiani. E allora ci stai bene, sto facendo là, c'è delle camere dappertutto. Prescini a San Becare, che era lui, cazzo. E a cazzo fare roba buona, prima o poi riesce la San Becare. Infatti, prima o poi la si acciappano. Era pagano i battuti da pagano. Certo. Mi batto danno enorme, però non hanno pensato che hanno lasciato un pedino a piedi, hanno lasciato. E come se delle case degli anziani, no? Cazzo che maltratta le persone anziane, no? Cazzo va, da che bisogna delle camere tutto e riesce a sapere, tanto rifatti non mattessi, no? Lo sa che vengono scoperti, lo fanno ugualmente. Meno male sulla mitella, c'è le camere riesci a sapere. A te grido. Non è vero, non ha ricevuto a Roma a maltrattamenti agli anziani. Certo, adesso che gli hai badiani in nulla. Non ha ricevuto di rame, sono dritto. E allora, e chi se la fa? Fuori c'è il gatto forse, in modo che non gli vorremmo fare di iniziazione. Ma oh, cazzo. per forza sono persone in difesa e fanno quelli che vogliono, capito? Arrivato a metà i zaini. Erano stati sono controllati, che sanno chi ci sono controllati e rifatti lo mattese. Ma domani diventare di burro invece. Un domani diventano il burro e di pesci. Certo, ma speriamo che li trattano i mari quando diventano i pesci. Ma lo pezzo la chiste. Lo pezzo la chiste. Domani è un capitale che scrive tutti i giorni. E lo pezzo che piazza fa per le ricche di travaglio, questi come si sono per lavare. Infatti, no. Meglio state in casa. Se ve la vemo a Natanazzi è buono, no, pazienza. È l'unica. Purtroppo le sofferenti, troppo, dappertutto, Cazzo. Però ogni tanto la c'ha prega qui, a trattare così. Nonostante i suoi difesi, capito? E infatti è così, purtroppo. È così. Secondo me sono leggi sbagliate. Secondo sotto le leggi che stanno sbagliando, per cui fanno tutto quello che vogliono. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Chissà che non fa certa cosa. Le leggi sbagliate, le leggi di chi, le leggi che dassero. Ma è seccato. Ovvero. Ma che tutti siamo arrivati, sto. Questo ci abbiamo fatto il bene e servire, da niente, l'abbiamo messaggio prima di fare in stazione. Sì. Purtroppo è così. Chissà cosa è. Va bene, ecco, io chiudo, ci sentiamo domani se tutto va bene. Ok, ieri sera lo schieri però. No, era un macello in occhi, quindi non so che entrando anche per troppo macello, vedi in occhi. Per un brutto scopo in via nuda. Ok, d'accordo, sentiamo, buon proseguimento, grazie alla chiacchierata. Ok, Giomari, ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao Giomari, stammi bene.